La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti. Gli orrori veri di Columbine, gli orrori presunti di Clark Road. L'America ci racconta le sue paure in Davanti agli occhi e The Strangers, i due film che aprono il 2009 del cinema in Italia. Meno male che c'è la Germania a farci ridere con la sfrontata principessa Lissi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, un'ora per parlare di film in sala, di uscite in DVD, per giocare con il nostro DVD game, per cominciare a presentare i grandi festival del primo semestre di quest'anno, Berlino, Cannes, ma anche Bari, con un nuovo festival tutto dedicato al cinema italiano. Avremo due interviste esclusive, quella al regista di Davanti agli occhi, James Perelman, e quella a Lorella Cuccarini, voce italiana della principessa Lissi. Ma come sempre cominciamo ad entrare nel clima della sala cinematografica con il nostro audio sommario. L'immaginazione è la nostra abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Anche tu eri scatenata. Lo sai cosa mi piace di te, Tayana? Che ho 17 anni. Ricordo ancora quando ti hanno arrestata. Possibile che non cambi mai nulla in questo posto? Eccetto te. Il Corriere dello Zar voleva una firmetta. Mettetela per il vostro schiavo. Una raccomandata nel mezzo della notte? Bene, maestà. Disporrò che il Corriere venga torturato se vi ha disturbato. Ma no, dai. Non sarà un'altra volta? Oh mio Dio, la copia a carbone. Uccidetemi qui. Insomma, di che si tratta? Viene dalla Boemia. È di un sexy show. Di un sexy show. Un sexy show. Un sexy show. Oh. Finalmente. Questo ci darà emozioni mai provate, feldmaresciallo. C'è qualcuno là fuori? Che cos'è? Il mio telefono. Oh mio Dio. Dobbiamo andarcene di qui. E cominciamo dal film più interessante di questo terzetto per la regia dell'esordiente Brian Bertino e per le atmosfere da horror psicologico dell'assedio che rimandano al cinema di maestri alla John Carpenter. Horror minimalista, con tanta paura ma poca enfasi, poco sangue, poche impennate del volume della musica. Un horror interiore nella quale è facile immedesimarsi. Che c'è? Voglio solo dirti una cosa. Che cosa vuoi dirmi? Sei la mia ragazza. Ti amo, Jimmy. Doveva essere una notte all'insegna del romanticismo, quella dell'11 febbraio 2005, al numero 1801 di Clark Road, Florida. James Hoyt aveva sparso petali di rosa, acceso candele, messo in fresco lo champagne nella sua casa di campagna sperduta nei boschi vicini a Sarasota. Aveva pensato che la festa d'amici dalla quale si erano appena congedati potesse culminare con la domanda di matrimonio per la sua fidanzata Kristen e aveva curato nei particolari la scenografia. Ma le cose non erano andate come previsto da James. Kristen si era detta non ancora pronta al grande salto e così l'ingresso della coppia nella casa di Clark Road era avvenuto con meno gioia del previsto e tutta quell'ambientazione risultava beffarda, anzi si preparava ad essere l'assurdo set di una notte di paura. Che cos'è? Tranquilla, non c'è nessuno qui. Non ho sentito abbaiare nessun cane, né un'auto passare. Niente. Erano le 4 del mattino quando qualcuno aveva bussato alla porta. Una ragazza con il volto nella penombra aveva chiesto se lì ci fosse una certa Tamara. James aveva risposto di no, Kristen si era addirittura insospettita, ma poi i due avevano chiuso la porta ed erano tornati a leccarsi le ferite d'amore, forse anche a fare la pace. Fino a quando Kristen aveva chiesto a James di uscire per comprarle qualcosa e le presenze erano penetrate dentro la casa, lasciando tracce inquietanti. C'è nessuno? Che cos'è? Il mio telefono. Oh mio Dio. Dobbiamo andarcene di qui. Io apro la porta e tu corri, ok? Ci fermiamo qui con il racconto, per rispetto della suspense. Vi basti sapere però che da qui in poi i colpi di scena non mancano, ed è il bello di un film che ci mette di fronte alla paura più ancestrale. E se la violenza di cui siamo oggetto fosse totalmente gratuita e immotivata? Sorvolando sulla veridicità dei fatti di Clark Road, il manifesto del film parla di una storia vera, ma su internet non abbiamo trovato traccia di quella storia, forse liberamente ispirata a uno degli omicidi della Manson Family, Brian Bertino è bravo a farci da guida in questo inferno. E lo fa senza mai mollare la presa sui personaggi, spesso un banale pretesto per molti film dell'orrore. Bertino invece usa la psicologia dei suoi protagonisti e del contesto creato per seminare qualche tranello, qualche falsapista, ma poi ci riporta lì, nel centro dell'orrore, che ancora una volta è la casa, il luogo in cui tradizionalmente dovremmo sentirci più sicuri e protetti. È forse il frutto di una società che si sente insicura e assediata, che ha paura di tutto, soprattutto di ciò che può colpirla, quando meno se lo aspetta. Perché ci state facendo questo? Perché eravate in casa. Abbiamo parlato di The Strangers, la prima proposta cinematografica di questo weekend. Ora andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo al botteghino in questi giorni festivi. Difficile in questi giorni fare una classifica aggiornata perché, come abbiamo già detto nella puntata speciale di Capodanno, ogni giorno è buono per andare al cinema. Ci sono state molte festività infrasettimanali, siamo di fronte all'ennesimo weekend e poi ci sarà ancora l'Epifania. Però qualche linea di tendenza si comincia ad intuire, le ha raccolte per noi nella Screen Parade Daniela Faggion. Battaglia tropicale tra il Brasile e l'Africa fantastica per la conquista del botteghino delle feste. Parte bene comunque anche l'unica new entry in top 5, The Spirit, uscito in tutto il mondo il 25 dicembre, trainato certamente dalla sensualità di due bellezze come Eva Mendes e Scarlett Johansson. La mia città urla. È mia madre. È la mia amante. Quarto posto confermato per il lacrimevole Come un uragano, che ritrova la coppia Richard Gere e Diane Lane. Confermati al terzo posto Aldo, Giovanni e Giacomo, che con il Cosmo sul Comò hanno già preso la rincorsa verso i 10 milioni di euro. Da quant'è che non ti confessi? Beh, c'era ancora Pertini. Abbiamo vinto i mondiali 2006. Cede una posizione Madagascar 2, che comunque tiene nel mirino il film di Neri Parenti, e supera ugualmente i 15 milioni dopo due fine settimana in sala. Mi piaci se ti muovi. Mi piaci se ti muovi. Ci piace quel che muovi. E allora muovi. Legge del cinepanettone confermata anche quest'anno. Non è Natale senza Christian De Sica al cinema. Natale a Rio ha dominato il botteghino, realizzando anche la miglior media per sala tra spiagge dorate e inevitabili qui pro quo. Capita quasi ad hoc. Io mi sono fatto un programmino. Anche lei ad hoc? No, a Rio. E linea ora alla regia. Fra poco torneremo insieme qui alla Rosa Purpurea per affrontare gli altri film di questa settimana di ripresa delle uscite cinematografiche, che prelude poi a più massicce uscite di nuovi film, anche molto importanti, nella prossima settimana e in quella ancora successiva. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, seconda parte della Rosa Purpurea. Abbiamo affrontato queste prime uscite del 2009 partendo dall'horror. Adesso alleggeriamo decisamente il clima con una principessa. Una principessa un po' particolare però, perché arriva nelle sale cinematografiche italiane Lissi, Principessa alla riscossa. Una principessa un po' particolare, dicevamo, perché è un film tedesco d'animazione molto divertente e che ancora una volta prende un po' in giro lo stereotipo della principessa. Da qualche anno il cartoon e il cinema in particolare si stanno un po' interrogando su questa figura che per tante generazioni è stata assolutamente intangibile, sempre al di là di tutto quasi eterea, invece ultimamente viene un po' messa in discussione. Insomma, una sorta di spoof comedy, di film che prende in giro un po' gli altri cartoon e le principesse dei cartoon principali. È divertente, interessante e sicuramente originale il fatto che questo film arrivi da una scuola d'animazione che non conosciamo a fondo come quella tedesca. E allora facciamoci raccontare Lissi, Principessa alla riscossa, dalla nostra Daniela Faggion. Quante fanciulle hanno sognato sulla storia della principessa Sissi. Bene, è il momento di far sognare anche tutte le principesse postmoderne stanche della stucchevole magia austro-ungarica e desiderose di qualche emozione in più. A questo serve la storia di Lissi, consorte del Kaiser Franz, coppia armoniosa in un mondo di armonia, messa in pericolo dall'abominevole uomo delle nevi. Brava Lissi, brava! Allarme! L'imperatrice è stata rapita! Ma no, faceva parte del programma! Stavolta no! Lo Yeti ha rapito la simpatica Lissi portando scompiglio nello spensierato castello di Schöngrun. Il valoroso Franz, accompagnato dal Federmaresciallo e dall'imperatrice madre, decide allora di mettersi sulle tracce della sua amata. La foresta pullula di delinquenti abituali, ubriachi e nudisti che attaccano spietatamente le povere mamme. Oh, ho passato momenti peggiori. Lissi nel frattempo si trova alle prese con un gigante peloso dai modi assai poco regali, ma pian piano sembra scoprirne anche insospettabili virtù. Almeno lei ha capito chi sono io? Una bella cinghiana. Il mio Franz non mi ha mai detto una cosa così eccitante. Sto arrivando, bella porcellina. Sulla via spianata dal disneyano come d'incanto, Lissi è una dissacrante principessa con la voce di Lorella Cuccarini, capace di uscire dal torpore della fiaba preferendo la vita vera. Spunti da Shrek e La Bella e la Bestia si mescolano a tanta germanica ironia. E la nostra Barbara Righini ha intervistato la voce italiana di Lissi. È stata scelta una delle figure più complete dello spettacolo leggero italiano, Lorella Cuccarini, attrice, cantante, ballerina, soubrette, ha avuto davvero tutti i ruoli possibili e immaginabili nella varietà, ma soprattutto principessa dei sogni degli italiani, addirittura la più amata dagli italiani, come recitava un famoso slogan per tanti anni. Allora ascoltiamo Lorella Cuccarini, la Lissi italiana, al microfono di Barbara Righini. Lorella Cuccarini nel ruolo di Lissi come doppiatrice, questa principessa, che principessa sei? Beh, è assolutamente una principessa sui generis, diciamo, noi siamo abituati solitamente a queste ragazze bellissime, bionde, etere, sempre così piene di buoni sentimenti, ecco, questa proprio fa dimenticare lo stereotipo della principessa, nel senso che è un po' bruttina, che è imbranata, che è anche molto, molto ironica, insomma, in realtà non si sa quanto lo sia, quanto invece... ci faccia, no? Per cui devo dire mi ha affascinato e mi ha appassionato molto anche per questo. Che esperienza è stata per te provare il doppiaggio in un cartone animato? Ma intanto è stata proprio la mia primissima esperienza, cioè era la prima volta che prestavo la voce a una persona diversa da me, perché mi ero doppiata, insomma, in fiction, in pubblicità, ma mai avevo dato la mia voce. In maniera particolare un cartone è molto complicato, perché insomma bisogna dall'aspetto tecnico, no? Di seguire comunque il labiale del cartone, bisogna comunque poi rendere tutto quello che il personaggio è in video, e quindi insomma la sua energia, la sua carica, il suo umorismo, no? E soprattutto in questo caso, perché insomma lei è un personaggio veramente molto molto divertente, molto buffo. È proprio per questo che abbiamo scelto poi di mantenere un po' la versione, diciamo, quella originale, che era doppiata da un uomo e che quindi era doppiata in falsetto. Ecco, anche noi, nonostante io fossi una donna e quindi potessi utilizzare la mia voce, abbiamo deciso di farla in falsetto perché rendeva molto molto più buffo il personaggio. Cartoni animati in questo periodo ne stanno uscendo moltissimi. In generale c'è un'invasione nell'ultimo, non solo in questo periodo, ma negli ultimi tempi. Avendo dei figli, immagino farai scorpacciate. Assolutamente, di tutti i tipi, diciamo, non ne perdiamo nessuno proprio, magari non riusciamo a vederli tutti al cinema, però insomma quelli che perdiamo nelle sale li vediamo successivamente in DVD. A proposito di cinema, una carriera come attrice cinematografica, l'hai mai sognata, la vorresti magari da adesso in avanti? Guarda, l'ho sognata moltissimo, sicuramente mi piacerebbe, certo, parlare proprio di una carriera cinematografica, non so quanto spazio ci possa essere per un personaggio come me, però ecco, ti dico, mi piacerebbe molto sicuramente avere l'opportunità, ecco, di fare soprattutto per esempio una commedia, mi piacerebbe molto una commedia sofisticata, io per esempio amo e adoro le commedie americane, quelle sofisticate, un po' alla Nora Ephron, Ti presento Sally, cioè dove ci sono questi personaggi femminili veramente molto ben raccontati. Ecco, insomma, se capitasse l'opportunità, certamente non me la farei sfuggire. È appena uscito negli Stati Uniti l'ultimo film di Gabriele Muccino con Will Smith, film hollywoodiano di Gabriele Muccino. Quest'anno il successo di Gomorra, insomma, il cinema italiano sembra essersi ripreso. Tu come lo vedi il 2009 per il cinema italiano? Ma io devo dire, lo vedo molto bene, nel senso che mi fa piacere che ci siano tante collaborazioni di personaggi, di personalità veramente molto importanti italiane, no? Che cominciano anche ad entrare in un mercato di tipo diverso, perché se c'è una grande difficoltà secondo me per il cinema italiano è anche come dire, insomma, dal punto di vista dei budget. È chiaro che da quando Muccino ha cominciato a poter lavorare e ad accedere a budget di tipo hollywoodiano, insomma, le capacità non gli mancavano e quindi ha avuto veramente modo di potersi esprimere a 360 gradi. E questo è molto bello perché capita con i registi, ma ho visto che anche con gli attori, no? Cominciano ad esserci tante partecipazioni anche in film americani di attori italiani, perché qui c'è tanto talento, è inutile che lo nascondiamo, insomma, e quindi ben venga quando poi se ne accorgono all'estero e si danno a nostri personaggi queste possibilità. Lorella Cuccarini, la voce italiana di Lissi, principessa alla riscossa, la seconda proposta cinematografica delle tre nuove che escono in questo fine settimana. Noi apriamo la prima parentesi, la prima pagina del DVD game di questa settimana. Siamo reduci da una buffata di DVD regalati nel giorno di Natale, nelle puntate precedenti. Vi ricordo che nell'ultima parte di questa trasmissione ritroveremo il nostro Claudio Pofi per raccontarci un po' le prime novità in DVD di questo 2009, ma noi abbiamo voluto dedicare il DVD game di questa settimana, cambiando leggermente formula, a una grande casa di distribuzione dell'horror e della fantascienza di tutti i tempi, visto che due terzi delle novità cinematografiche di questo primo weekend del 2009 sono proprio comunque di cinema, diciamo così, riconducibile a questo genere, direttamente o indirettamente. La casa di produzione di cui vi parlavamo è la Hammer, mitica casa londinese creata all'inizio degli anni 30 e specializzata appunto in film di fantascienza e horror. E allora questa volta il film che vi regaliamo, anzi i film che vi regaliamo, sono noti. Si tratta dei film che compongono la trilogia del dottor Quatermass, l'astronave atomica del dottor Quatermass, I vampiri dello spazio e L'astronave degli esseri perduti. Sono tre film pubblicati da Password che appunto ci restituiscono questa saga davvero straordinaria della fantascienza anni 50, un personaggio straordinario, quello di Bernard Quatermass, appunto, professore alle prese con presenze aliene che arrivano sulla Terra e in qualche modo insidiano il genere umano. Erano film di una fantascienza ovviamente un po' più sognatrice, un po' più semplice, se vogliamo. Stavolta, come dicevamo, i film sono noti. Andiamo quindi ad ascoltare una clip tratta in questo caso dal capostipite della trilogia, L'astronave atomica del dottor Quatermass. Non è solo il viso, di un'occhiata alla pelle. Dove vuole? Qui, sulla spalla. La tocchi? Sì, è gonfia, ispessita. Sì, e neanche questo è tutto. Guarda il contorno del viso. Modificata la struttura ossea? Sì, posso sbagliarmi su un muscolo, ma non sulla struttura delle ossa. C'è stato un cambiamento, ne sono convinto. Le atmosfere vintage di questo film. Allora, la prima domanda è questa. Cosa usò l'autore degli effetti speciali Les Bowie per rendere il mostro del primo film, appunto l'astronave atomica del dottor Quatermass del 1955, più mostruoso? Gli effetti speciali erano un po' primordiali, allora si usavano materiali non propriamente moderni. Allora, cosa usò Les Bowie per rendere il mostro del primo film, l'astronave atomica del dottor Quatermass, più mostruoso possibile? La Rosa Purpurea, @radio24.it per cominciare a giocare e a vincere questi capolavori della fantascienza anni 50. Più tardi ovviamente avremo un altro paio di possibilità per vincere i DVD del Dottor Quatermass, la grande storia dell'horror e della fantascienza della Hammer. Noi a questo punto abbiamo un paio di notizie che riguardano due grandi star del black cinema, insomma del cinema nero, così quasi anticipando l'uscita nelle sale italiane la prossima settimana dell'attesissimo film di Gabriele Muccino, Seven Pounds, Sette Anime, con Will Smith, che forse è il top dei top per quanto riguarda gli attori neri in questo momento. Ma sono passati in Italia a Capri, come sempre la kermesse Capri Hollywood, che porta le grandi star del cinema americano sulla splendida isola campana. Sono passati, dicevo, Samuel Lee Jackson e Oscar Whittaker, quindi due grandi star del black cinema. Samuel Jackson, tra l'altro, nelle sale cinematografiche italiane in questi giorni in The Spirit, dove recita proprio il ruolo del cattivo, è uno degli attori più prolifici di Hollywood, 60 anni, 120 film, tra i quali successi immortali come Guerre Stellari, Pulp Fiction e Die Hard. Lavorerà tra l'altro nel prossimo film di Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, ma non lo vedremo sullo schermo perché sarà semplicemente la voce narrante di questo film. Nella sua chiacchierata con la stampa, Samuel Jackson ha detto che gli piacerebbe girare un film in Italia e ha fatto un nome, quello di Nanni Moretti. Ha detto: ero nella giuria di Cannes quando fu candidato il suo Caimano, lo votai, era un gran bel film, ho apprezzato molto anche L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, lavorare a Cinecittà per me sarebbe un grande sogno. Ancora sul cinema italiano, Samuel Jackson ha detto: Fellini mi ha aperto la mente sulle possibilità del cinema e ha congedato tutti, dando appuntamento a Washington il 20 gennaio per l'insediamento di Barack Obama. Non ho un programma preciso, ha detto Jackson, indosserò un cappotto caldo e starò in piedi al freddo a vedere la storia che passa. Questo Samuel Jackson, ma dicevamo anche Forest Whitaker è passato da Capri. L'attore afroamericano ha presentato il film Hurricane Season sul post-uragano Katrina a New Orleans e nel suo futuro ci sarà Louis Armstrong, perché Forest Whitaker sarà protagonista di un film biografico sulla vita del grande jazzista. Racconteremo, ha detto, delle sue umilissime origini di povero ragazzo che non possedeva nemmeno un paio di scarpe. Racconteremo di cosa significhi essere un genio in quelle condizioni. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea e terzo e ultimo film fra le novità cinematografiche della settimana. Si intitola Davanti agli occhi ed è interessante soprattutto per la presenza di Uma Thurman. Il film racconta l'amicizia fra due adolescenti, compagni di scuola nella provincia americana, un'amicizia improvvisamente messa alla più difficile delle prove dall'irruzione di un dramma vero nelle loro vite. Qualcuno ha parlato di similitudini con i fatti di Columbine, con la strage nel liceo di Columbine, ricorderete anche il film tra gli altri di Michael Moore e quello di Gus Van Sant. Certo, questa volta l'intenzione è tutta di fiction, è tutta di ricostruzione, si riparte dal punto di vista di queste due ragazze e ritroviamo una di loro cresciuta di 15 anni appunto con il volto di Uma Thurman. Ma sentiamo tutto da Barbara Righini. Una cittadina americana sperduta, un liceo e due ragazze come tante altre, due amiche che sognano un futuro luminoso e che fanno tutto ciò che fanno le adolescenti, si raccontano segreti, sperano di incontrare il principe azzurro, marinano la scuola, fumano spinelli e si divertono. Diane e Maureen si preparano all'età adulta godendosi la vita. Maureen, cosa ho fatto per meritarti? Qualcosa in qualche vita precedente? Probabilmente noi siamo come la pioggia quando evapora. Ce ne torniamo nell'atmosfera. Non è detto però che per le due amiche ci sia veramente la casa dei loro sogni, i figli e un marito. Una mattina il ragazzo che conoscono da sempre, Michael, il compagno di classe sempre un po' in disparte, che non fa amicizia con nessuno, arriva a scuola e comincia a sparare a caso. È una strage. Maureen e Diana aspettano atterrite nel bagno fino a quando Michael non spalanca la porta. Sanno che stanno entrambe per morire, ma il ragazzo offre loro una possibilità: scegliere chi delle due deve restare in vita. Nel ruolo di Diane, Evan Rachel Wood e Uma Thurman. Sentiamo proprio la Thurman. Io e Evan Rachel Wood interpretiamo lo stesso personaggio. Lei è me quando sono teenager e io sono lei, cresciuta, con una bimba. Ho un marito e lotto contro tutte le difficoltà tipiche di una donna matura. la famiglia, la noia di una vita sempre uguale, e mi chiedo se quella vita è la vita che avevo sognato. È una riflessione sul personaggio. Dunque, è Diana che sopravvive, oppure no? Solo alla fine lo spettatore capirà cosa esattamente è successo in quel bagno. Il regista dilata all'infinito il momento della verità, quell'attimo nella toilette in cui le due ragazze sono davanti alla morte. In un continuo susseguirsi di flashback e flash forward, Vadim Perelman riflette sulle mille direzioni che una vita può prendere in un secondo che si rivela decisivo. Allo stesso tempo ci parla del momento più delicato dell'esistenza, l'adolescenza. Ancora Uma Thurman. Ho adorato lo script. Quello che mi ha attirato da subito, oltre al fatto che era scritto meravigliosamente, come un sogno che ti manda in trance, è stato il modo di approfondire i personaggi, soprattutto i dialoghi tra le due giovani ragazze. Leggendo le scene che riguardano le due ragazze, il modo in cui si parlavano e osservavano la realtà, mi sono ricordata della mia giovinezza. Mi sono ricordata di quando ero teenager e quanto è stata dura essere sola, anche se mi ha arricchito. Quei ricordi che erano spariti sono tornati vivi. Trovare un film che osserva la vita in modo così eloquente e gentile è qualcosa di raro. Questa è quindi la storia del film e la voce della protagonista Uma Thurman. Ora conosciamo meglio il regista, Vadim Perelman, origini ucraine, rifugiatosi in Europa con la famiglia quando era bambino. Aveva esordito al lungometraggio con La casa di sabbia e nebbia, un film con Ben Kingsley e Jennifer Connelly del 2004 che ruotava attorno al concetto di casa, di home più che di house, per dirla all'inglese, ovvero il luogo del cuore e degli affetti, in quel caso conteso tra diritti e anima. Ora Spielberg gli ha affidato per il futuro un nuovo progetto, Il talismano, da un racconto di Stephen King, mentre si parla di Perelman anche per la regia del remake del classico dell'horror Poltergeist. Insomma, un regista in rapida ascesa. Ascoltiamolo proprio su questo film, Davanti agli occhi, intervistato ancora dalla nostra Barbara Righini. Nel film vediamo le conseguenze di una strage in una scuola, quindi non un film alla Bowling for Columbine, ma ci mostra tutto ciò che succede dopo la strage. Per me questo non è un film che parla di una strage in una scuola. Per me questa era un'opportunità per mostrare come il futuro venga irrimediabilmente condizionato da eventi come questo. Mentre viviamo la nostra vita, facciamo scelte ogni momento, scelte che si ripercuotono sul nostro futuro. Collezioniamo semi e costruiamo ogni giorno gli edifici del nostro futuro. Spesso, quando prendiamo decisioni, pensiamo a come vorremmo che fosse. Uma Thurman e Evan Rachel Wood per interpretare lo stesso personaggio in età diverse. Come mai questa scelta? Come mai proprio queste due attrici? I thought that they had a similar, a very similar nature about them. They look quite similar, I thought. Penso che siano simili nella natura, si assomigliano. Uma interpreta splendidamente una donna problematica, anche in Kill Bill. Sono stato attratto da quell'idea. Penso che loro due si compensino bene. I piani temporali in questo film si mixano, solo alla fine lo spettatore capisce che cos'è successo e non è così matematico, così immediato. Perché questa scelta, e non aveva paura che il pubblico facesse confusione? Ho usato quel tipo di struttura anche nei temi, nel senso che se vediamo, per esempio, acqua nel passato, la vedremo nel futuro e viceversa. Serve per capire che ci sono degli eco dal passato al futuro. Questo supporta la mia tesi fondamentale. Per quanto riguarda invece il pubblico, se capirà le connessioni, io tendo a dare fiducia allo spettatore. Non mi pongo il problema se saprà cogliere tutto. Tendo a sovrastimare le persone piuttosto che a sottovalutarle. E con Davanti agli occhi si chiude il panorama esiguo per questa settimana, ma ci potremo rifare settimana prossima e quella ancora dopo, con tantissime nuove uscite. Dicevo, il panorama delle uscite cinematografiche, delle novità in sala del weekend. Siamo convinti che anche in questo fine settimana faranno sentire il loro peso i campioni di incasso natalizi. Andiamo al secondo momento per giocare insieme, per provare a vincere uno dei DVD della saga del dottor Quatermass, quindi l'astronave atomica del dottor Quatermass, I vampiri dello spazio e L'astronave degli esseri perduti. Il film è questo, quindi stavolta, come abbiamo detto prima, non dovete indovinare il film, ma dovete invece indovinare cose inerenti la produzione di questo film. La domanda che vi facciamo ora è questa: la serie di Quatermass era stata ideata e prodotta sulla base di una serie televisiva precedente dalla Hammer Film, appunto casa di produzione londinese, come abbiamo detto prima, fondata negli anni 30. Dovete dirci quale fu nel 35 esattamente il primo film prodotto dalla Hammer. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo di posta elettronica se avete la risposta esatta da darci. Più tardi, un'altra possibilità di partecipare al nostro DVD Game. E parliamo ora di festival, perché sono il motore del cinema a livello internazionale, sono spesso rivelatori di nuovi registi, di nuove tendenze. Ci sono festival ovviamente piccoli e molto grandi, acclamati e tutti da scoprire, per cinefili o per grandi media, insomma, ce n'è per tutti i gusti. In questa puntata vogliamo affrontare brevemente il passaggio su due festival internazionali di grande prestigio: il Festival di Cannes, prossimo mese di maggio, il Festival di Berlino, molto più vicino, dal 5 al 15 febbraio. Da Cannes arriva una notizia: Isabelle Huppert sarà la presidente della giuria, e questa è una notizia di questa settimana che chiaramente dà un segno a una giuria d'autore, chissà, forse francofila. Siamo convinti delle capacità invece di Isabelle Huppert di saper spaziare in tutto il cinema che c'è. Poi, per quanto riguarda invece il Festival di Berlino, siamo vicini ormai alla scadenza, manca poco più di un mese. Ci sono i primi titoli, fra poco arriveranno anche gli altri, ma si preannuncia come un festival di grandissimo livello, anche spettacolare, anche mediatico, con la presenza di tantissimi attori e di tantissime star, ma chiaramente non rinnegando la sua natura di festival, diciamo così, socialmente e politicamente sempre molto impegnato. Tra i titoli in concorso: Rage di Sally Potter, l'opera prima americana The Messenger di Oren Moverman, la coproduzione nordica, Svezia, Germania e Danimarca, Mammut di Lucas Moodysson. E poi invece fra i film fuori concorso troviamo l'attesissimo The Reader di Stephen Daldry con Kate Winslet e Ralph Fiennes, candidato a 4 Golden Globes, il nuovo film di Theo Angelopoulos, The Dust of Time Greece, con un cast stellare: Irene Jacob, Michelle Piccoli, Willem Dafoe, Bruno Ganz. E ancora The Private Lives of Pippa Lee di Rebecca Miller con Robin Wright Penn, Alan Arkin e Keanu Reeves. E ancora il comico e attesissimo Pink Panther 2 con Steve Martin e Jean Reno. Se solo la metà di questi attori arrivano a Berlino, Berlino per qualche giorno si trasforma in Hollywood. Ricordiamo tra l'altro che a Berlino ci sarà anche una retrospettiva sull'anniversario della caduta del muro. 1989-2009, sono passati quasi 20 anni, anche se il ventennale sarà più tardi, nel mese di novembre, però il Festival di Berlino, per non farsi fregare dagli altri a livello mediatico ovviamente, propone questa retrospettiva ben prima. Fine della parentesi dedicata ai festival, ai grandi festival internazionali, per introdurne invece uno che vorrebbe essere grande, per il momento comunque ha già una dimensione ragguardevole. Si tratta di Per il cinema italiano numero zero, un titolo che dice tutto, dice contenuti e dice appunto intenzioni. Si svolgerà a Bari dal 12 al 17 gennaio, è stato presentato recentemente alle giornate professionali del cinema a Sorrento. Direttore, una forza del cinema italiano degli anni 80 e 90 come Felice Laudadio, già direttore della Mostra del Cinema di Venezia, di Europa Cinema Viareggio, di tanti festival, animatore cinematografico, coadiuvato nell'organizzazione da Marco Spagnoli, collega giornalista di tante testate. E allora, Per il cinema italiano numero zero. C'era bisogno di un nuovo festival in Italia, potremmo dire, forse in maniera un po' provocatoria? Ci risponde Felice Laudadio. Ma guarda, il cinema italiano è una vittima in sostanza del nostro cinema. Cioè, noi continuiamo a tirar giù dati, numeri, cifre. Quando era non molti anni fa, al 12% si piangeva lacrime amare, miseria, nessuno ha fatto nulla però perché ciò cambiasse. Poi è successo una cosa abbastanza singolare, che da una parte il cinema americano o il cinema non italiano è scomparso dalla prima serata delle reti pubbliche e private per far posto alla fiction televisiva. C'è stata una straordinaria nascita di generazioni nuove di registi, di produttori, di attori e di attrici. Quando mai abbiamo avuto tanti attori e tante attrici come in questi ultimi anni? Davvero, una volta scomparsi i grandi mostri sacri uno dopo l'altro, la Volonté, Mastroianni, Gassman, Antognazzi, Manfredi, è nuova, c'è una nuova generazione, allora accogliamola. Si scrive per gli attori anche, quindi una nuova generazione di sceneggiatori sta immaginando storie per certe facce, certe espressioni, certi visi, e dei registi che sono capaci probabilmente di mettere insieme le due cose. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla quarta e conclusiva parte della nostra Rosa Purpurea di questo primo weekend del 2009, con i DVD che la faranno da padroni, come sempre nel quarto blocco, ma questa volta anche con un'anticipazione dedicata alla cara vecchia videocassetta. Ne parliamo fra poco, intanto salutiamo già Claudio Pofi, il nostro super esperto. Ciao Claudio, ancora auguri di buon anno. Ciao Franco, auguri a te e agli amici che ci ascoltano. Dicevamo Claudio, parliamo fra poco di videocassette, perché sì, l'ultimo produttore americano della bene amata videocassetta, che dagli anni 80 ci aveva cambiato un po' la vita delle serate televisive, ha deciso di non produrre più e di non distribuire più VHS. Quindi possiamo dire che in un certo modo va in pensione ufficialmente la videocassetta, videocassetta alla quale abbiamo scoperto negli ultimi tempi molta gente è legata anche affettivamente. Sarà il volume, sarà il fatto che appunto ci ha avvicinato, ci ha portato in casa il cinema che amavamo. Fatto sta che questa videocassetta evidentemente non è stata buttata via dai nostri sentimenti con l'avvento del DVD. Un film di cui abbiamo parlato insieme tra l'altro recentemente, come Be Kind Rewind, era un po' tutto dedicato a questo amore vintage per la videocassetta. E allora noi abbiamo deciso di cercare di integrare questa notizia andando a raggiungere un grande esperto di VHS, perché gestisce a Milano, nella mitica via Soperga, che era la via del cinema di tutte le case di distribuzione milanesi, gestisce, dicevo, una piccola videoteca con davvero un catalogo di VHS straordinario, un vero e proprio santuario della videocassetta, ultima spiaggia per tanti pellegrini del film introvabile, che arrivano lì quando il DVD non gli ha dato risposte, cercando, implorando il signor Franco Zari di tirargli fuori un vecchio VHS magari molto molto usato, ma che possa restituirgli l'emozione di quel film. Allora, signor Zari, intanto benvenuto alla Rosa Purpurea, buon anno anche a lei. Chi è, cos'è la tipologia umana del fruitore di VHS oggi nel 2009? Al di là di qualche persona anziana che rifiuta il DVD per qualche piccola difficoltà di operatività, diciamo, no? Le altre persone che cercano le videocassette semplicemente perché non esiste ancora il prodotto editato in DVD. Ci faccia, signor Franco, degli esempi, se le vengono in mente ovviamente, di film, ecco, che lei dice questi ci sono per esempio solo in VHS e mi sono molto richiesti. Dei film, adesso mi viene in mente, non so, film giapponesi ad esempio, sui mostri eccetera, Roma città aperta, l'abbiamo trovato di importazione in DVD dalla Spagna. In Italia non è uscito in DVD e quello lì, anche la videocassetta, sta andando nel dimenticatoio. Ad esempio La regola del gioco, che non è mai, adesso è uscita anche in Italia, quello di Renoir. Prima non c'era neanche in videocassetta, un film importantissimo del 39. Quanto possono durare ancora qualitativamente queste cassette? La videocassetta, guardi, al di là delle storie che si sentono dire, delle muffe eccetera, se sono conservate dignitosamente, non all'umido, io penso che ancora 10, anche 20 anni vanno avanti ancora tranquillamente. Anche queste persone, che ben vengano per carità, che riversano videocassetta a DVD. Ci sono videocassette che sono 30 anni che sono in giro. Però il DVD che si fanno, che si masterizzano adesso, non si sa fino a quando andranno. Fra 10 anni ne potremo riparlare. E io non credo che ci sarà ancora su immagine su certi DVD rimasterizzato. Cioè che le immagini di un DVD passato da videocassetta potrebbero scomparire? Eh sì, o perlomeno sempre scemare nella qualità. E ringraziamo Franco Zari, Zari Film, abbiamo detto il santuario del VHS a Milano. Claudio, allora hai sentito, qui bisogna temere per la vita dei DVD. Sì, bisogna temere per la vita dei DVD in due casi principali. Il primo, da parte di chi va a realizzarli questi dischi, nel momento in cui va a utilizzare del materiale che in effetti non risponde pienamente alle caratteristiche di durabilità, il che significa che insomma, nel giro di alcuni anni ci si potrebbe ritrovare con un pezzo di plastica. Naturalmente sia gli indipendenti che le major si rivolgono a delle ditte affidabili che vanno a stampare i dischi e quindi garantiscono una lunga durata dello stesso. Il secondo fronte è quello dei dischi registrabili, quelli che si acquistano nei negozi e che si utilizzano per fare la fatidica copia dalla videocassetta piuttosto che registrare un programma televisivo. Non tutti si rivolgono a prodotti di marca e nel momento in cui non lo si fa, sicuramente si va a risparmiare. Il problema è che poi magari, come è già successo, come testimoniano tanti blog su internet, nel giro anche solo di pochi mesi, 3, 4, anche 6 mesi, ci si ritrova senza più registrazione. Una cosa che aggiungerei è che purtroppo il passaggio dalla videocassetta al DVD non è stato indolore neanche per quello che è l'aspetto artistico. Cito ad esempio la trilogia del Padrino, arriva in DVD con una qualità video assolutamente strepitosa, anche con una qualità audio veramente notevole. Peccato però che non sia presente nel DVD il doppiaggio italiano cinematografico. L'opera è stata ridoppiata, ma un altro esempio potrebbe essere Inferno di Cristallo della Warner. Purtroppo la versione in DVD non contiene il doppiaggio originale cinematografico in italiano, che è presente invece sulla versione speculare in videocassetta. E questo è davvero un buco ancora più preoccupante, perché da questa trasmissione spesso abbiamo parlato del ridoppiaggio dei film, che sappiamo essere a volte un po' quasi obbligato in un certo senso, perché magari la vecchia traccia è quasi inservibile, però insomma io preferisco personalmente un audio mono originale che non un 5.1 con le voci fresche di stampa di un paio d'anni fa. Quindi guardate bene nella vostra videoteca, se avete videocassette, prima di buttarle via capite bene che cosa avete in mano. Claudio, andiamo all'attualità. Stiamo giocando in questa settimana, come abbiamo detto ai nostri ascoltatori, con una serie di film che già conosciamo. Il DVD Game quest'oggi è un po' diverso dal solito, ovvero la grande saga del dottor Quatermass, uno dei classici della fantascienza di tutti i tempi, soprattutto degli anni 50, la grande casa di produzione londinese Hammer. La domanda per vincere uno dei film, L'astronave atomica del dottor Quatermass, I vampiri dello spazio o L'astronave degli esseri perduti, è questa: negli anni d'oro, diciamo la decade degli anni 50 per intenderci, la Hammer aveva sotto contratto parecchi grandi attori. Uno, famoso ancora ai giorni nostri, lavorò in molti film con la casa londinese e interpretò due figure mitiche dell'horror, Frankenstein e Dracula. Sapete dirci di chi si tratta? Se avete la risposta, la rosa purpurea a @radio24.it per provare a vincere uno dei film della trilogia dell'astronave del dottor Quatermass, di cui parleremo la prossima settimana poi più diffusamente, ma andiamo invece a risentire un estratto delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Ma che fai, Bari? Ma quale Bari? Qua non ci so Bari. Ah, non ci so Bari? E sta carta che è? Chi è? Guarda! Io non la vedo. Ragazzi, ma chiama le guardie. Oh, me vuoi lasciare? Si trattava del Marchese del Grillo, davvero uno dei capolavori della comicità italiana, con un grandissimo Alberto Sordi. Hanno vinto questa volta due ascoltatrici, complimenti a loro, Chiara Cazzola di Vicenza ed Elisabetta Ercolani di San Marino. Così possiamo dire che la Rosa Purpurea va anche all'estero. Claudio, cosa possiamo dire di questo DVD? L'edizione della Password è curatissima. Innanzitutto è un'edizione speciale, una deluxe curata niente meno che da Mario Monicelli, che realizzò il film nel 1981. Il maestro è stato coinvolto nella realizzazione di quest'opera soprattutto perché richiesta all'estero. Beh, la qualità del film sul primo disco è veramente notevole, perché è stato rimasterizzato e restaurato con la supervisione del direttore della fotografia Sergio Doffizi. C'è un'introduzione di Mario Monicelli, c'è un focus sulla musica, sulla colonna sonora dell'opera e ricordi dal set da cura sempre del direttore della fotografia. Vengono coinvolti anche lo scenografo Lorenzo Baraldi e la costumista Gianna Gissi. Questo per quel che concerne allora il Marchese del Grillo, il DVD game della scorsa settimana. Noi a questo punto andiamo invece alle recensioni di questa puntata, cominciando da una coppia di grandi attori americani, Al Pacino, Robert De Niro, due nomi che non si fatica a definire mitici. Il risultato di questo loro secondo incontro cinematografico è Sfida senza regole, di cui ascoltiamo la clip. Stavolta siete nei guai. Per l'omicidio di un criminale. Niente droga, giusto? Perciò niente flagranza di reato, niente prove, niente di niente. Niente reato, non ci posso credere, niente reato. Come sarebbe a dire niente reato? Omicidio, taglieggiamento, droga, ma di che altro abbiamo bisogno? Siete fortunati che la donna non sia morta. Sta calmo, collega. Avrà quello che si merita. Distribuisce Mondo Home Entertainment, Robert De Niro e Al Pacino, sono due detective della polizia di New York. Si trovano legati, coinvolti a una serie di omicidi tra l'altro di malviventi, di persone che hanno comunque avuto un passato torbido e che magari l'hanno fatta franca con la giustizia. Qualcuno li sta uccidendo, lasciando delle poesie sul luogo del delitto. Il film è interessante, sicuramente non siamo ai livelli di It, la sfida di Michael Mann. All'interno di questo DVD, che comunque segnalo di ottima qualità sia video che audio, sono presenti diversi approfondimenti, il commento del regista, ci sono vari focus sulla realizzazione, interviste agli attori e dietro le quinte. Ricordo che Sfida senza regole, Regio Skill, è disponibile da Mondo anche in alta definizione Blu-ray. E per chiudere, New York, la New York più underground, quella che alla fine degli anni 90 ha fatto da scuola a una vera generazione di attori, pensiamo a Steve Buscemi, a Tom DiCillo, e non sono gli unici, ma sono presenti in questo Delirious. Ascoltiamo la clip. Sai chi è una bella persona? Che? De Niro. Una volta mi si è avvicinato, mi ha dato la mano e mi ha chiesto come va. Ti ha dato la mano? Sì, e lo sai, la cosa straordinaria è che mentre parlavamo sentivo di avere molte cose in comune. Sai quando senti la sintonia? Dovresti chiamarlo. DVD di Officine Ubu per questo film presentato al Sundance Film Festival del 2007, la regia di Tom DiCillo, che ha chiamato sul set, oltre all'amico Steve Buscemi, Gina Gershon, Michael Pitt e addirittura Elvis Costello, un film sul mondo dei paparazzi, sul mondo dello star system, ma anche una storia di amicizia tra questo paparazzo in cerca di scoop e un giovane vagabondo, Toby, il personaggio interpretato da Michael Pitt, che vive col desiderio di diventare un attore famoso. Il DVD di Officine Ubu è fatto molto bene, è disponibile in italiano e in inglese, la colonna sonora solo stereofonica, c'è un making of, una photo gallery e addirittura un videoclip musicale realizzato dal regista che è presente integralmente rispetto alla versione poi inserita nel film. E grazie a Claudio Pofi, con il quale ci risentiremo la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea per parlare di DVD. A presto, un saluto. E con Claudio Pofi noi abbiamo concluso la nostra puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento è fra 7 giorni qui su Radio 24. Le uscite saranno tante, copiose e importanti, quindi non perdetevi il nostro programma il sabato alle 18, la domenica mattina alle 9 e poi numerose repliche anche notturne. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.